Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 28 gennaio, buongiorno, bentornati a tutti i nostri teleradioascoltatori, siete su Liberi Dentro e Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono Caterina Bombarda, qui con voi con Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. È venerdì e allora vogliamo dedicare la nostra puntata a qualche lettura. Io ho letto dal Sole 24 Ore nella sezione libri questo bellissimo articolo a firma di Serena Uccello intitolato Il carcere che ripara, storia di un bullo diventato educatore. E mi ha colpito perché attraverso una storia vera Andrea Franzoso racconta un modello virtuoso in cui la detenzione diventa uno strumento di recupero e di reinserimento, così come sancisce l'articolo 27 della nostra Costituzione: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E voi mi chiederete, ma questo è il principio, ma la realtà allora com'è, dato che il dato italiano sui tassi di recidiva sono purtroppo quelli che sono, ovvero il 70% delle persone detenute torna a rifare, a ricommettere il reato per cui è all'interno del carcere. Esistono tuttavia delle eccezioni che confermano invece il contrario, cioè che la creazione di un sistema pienamente centrato sul dettato costituzionale sia possibile. E quindi Caterina Franzoso ci racconta una di queste eccezioni? Sì, esatto. Una di queste eccezioni è la storia di Daniel Zaccaro, raccontata da Franzoso nel libro intitolato Ero un bullo, in libreria De Agostini dall'11 gennaio, presentato anche in anteprima da Franzoso presso la comunità Kairos insieme al ministro della giustizia Marta Cartabia, alla direttrice dell'istituto Beccaria di Milano Cosima Buccoliero e anche al cantante Marrakesh. Questa è la storia di un ragazzo vissuto nella periferia di Milano, quarto Oggiaro, e una famiglia con pochi soldi e tanti tanti problemi. Cresce per strada, in cortile e alle bedie, diventa un bullo a tutti gli effetti, temuto da tutti. Solo che c'era un piccolo problema, un ostacolo non da poco per questo ragazzo: il suo aspetto fisico. Era il più piccolo della classe, pensate, di statura naturalmente, e questo per lui era inaccettabile. Sapeva di avere coraggio da vendere e quindi gli mancava solo l'occasione per dimostrare quello che valeva e quello che voleva dimostrare di se stesso. Quindi curioso, sveglio, non vedeva l'ora di mettersi alla prova. E così come tutti i bulli ambisce alla carriera criminale: violenze, pestaggi, furti, rapine. E questo si verifica proprio perché nel 2007, mentre andava a scuola in treno assieme a due suoi compagni, aveva picchiato un ragazzo, e per questo motivo iniziano i primi problemi, anzi inizia l'inizio dei suoi problemi, fino a quando non finisce al carcere minorile, adolescente, indomabile, carico di rabbia e di aggressività, insomma per tutti un ragazzo perduto e irrecuperabile. Però per fortuna a un certo punto arriva la svolta. Quando? Sì, la svolta arriva con l'incontro col cappellano del carcere delle Beccaria di Milano, questo Don Claudio, e l'affido a una comunità di recupero. Ma proprio quando sembrava aver messo la testa a posto, ecco di nuovo ricadere nell'errore e essere arrestato di nuovo. Quindi la recidiva, la cosiddetta recidiva, stavolta finisce al carcere di San Vittore, si sente smarrito, pensa di aver deluso tutti, ma Don Claudio non lo abbandona. E lui si prende cura di lui, ma anche si prende cura una professoressa di lettere in pensione, questa Fiorella, quindi ricordata anche lei nel libro, che fa la volontaria in carcere. L'unico sollievo, come rilevo anche io in tante storie di detenzione, arriva dai libri. Nelle carceri ci sono le biblioteche, che diventano posti meravigliosi per chi è veramente appassionato alla lettura, ma anche all'acquisizione di nuove conoscenze. E così Daniel riprende gli studi che aveva interrotto, si diploma e decide anche di iscriversi all'università. Oggi fa l'educatore e aiuta altri ragazzi difficili a cambiare strada. Quindi questa è una storia di una giustizia che ripara e riabilita, e oltretutto un aspetto importante di questo libro, questo l'ha sottolineato Cosima Buccoliero, la direttrice del carcere Beccaria di Milano, è un libro importante per i ragazzi perché apre loro una speranza, li spinge a superare le difficoltà e a pensare che un'altra storia sia possibile, ma è un segnale di ottimismo anche per noi operatori, dice la direttrice, perché aiutare i ragazzi è il nostro obiettivo e aiutarli anche a impiegare il tempo della pena in un modo che consenta loro di superare le fasi più critiche e intanto acquisire gli strumenti per crearsi nuove opportunità. E io ci ho tenuto a raccontarvi questa storia bella, che può essere la storia di tanti e tante che ci stanno ascoltando, e lancio anche una canzone bellissima che ci farà stare bene, si intitola così, di Caparezza, Ti fa stare bene, e la dedico a Leon dalla Dozza. A tra pochissimo. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Il venerdì è il nostro venerdì animalesco, come lo abbiamo intitolato simpaticamente io e Antonella, perché parliamo di animali, come vivere senza di loro, e questa volta il protagonista di questo racconto di oggi è il gatto Maine Coon, vero Antonella? Esattamente, siccome la volta scorsa avevamo parlato del pitbull, avevamo parlato di un cane particolare, oggi parliamo di un gatto particolare. E il Maine Coon pone le sue origini in Nord America, precisamente dalla fredda regione del Maine, e il suo nome tradotto letteralmente significa procione del Maine. Infatti ha questa coda che ricorda molto quella di un procione, e arrivando poi da una zona dove gli inverni sono rigidi, ovviamente il suo aspetto e la conformazione del suo pelo si sono adeguati, proprio per proteggere il felino dal freddo e dargli la possibilità di sfidare temperature sempre più rigide. Ma raccontaci da quali incroci nasce questo gatto Maine Coon. Allora, ci sono un paio di versioni. Una teoria è che gli esemplari di razza Maine Coon discendano da ben 6 gatti domestici che la regina Maria Antonietta spedì a Wiscasset nel Maine, mentre progettava la fuga dalla Francia durante la Rivoluzione Francese. Però, insomma, questa è un po' più una leggenda. Invece la storia, forse meno attraente, ma sicuramente più verosimile, è quella che la specie provenga da gatti domestici a pelo corto, allevati con gatti a pelo lungo, insomma, da questi incroci che questi incroci, insomma, viene fuori appunto questo gatto attuale. E i gatti a pelo lungo sarebbero stati portati in America dai vichinghi o dai marinai europei che attraccavano nel New England durante il 1700. Intanto in Italia questa razza arriva molto più tardi, siamo nel 1986, ma da allora in realtà ha avuto una rapida escalation nelle nostre case, tant'è che il Maine Coon è la quinta razza di gatti più popolare al mondo. Se vuoi, Caterina, te lo descrivo un attimo, perché è un gatto di taglia piuttosto grande, dall'aspetto regale, le sue dimensioni sono imponenti rispetto alla media dei gatti, e ha una struttura ossea ovviamente pesante ed è muscolosa, le gambe sono robuste, muscolose e marcano ancora di più questo aspetto, diciamo, quasi rettangolare della sua silhouette. Ha questi piedi grandi, rotondi e che hanno le dita molto lunghe e ben distaccate tra loro, proprio per avere una maggiore presa. Tra l'altro le femmine sono significativamente più esili rispetto ai maschi, pensa che il maschio adulto generalmente pesa intorno agli 11 kg, mentre la femmina raramente arriva ai 7 kg. C'ha queste orecchie belle, grandi, aperte, pelose, ma sono pelose in un modo un po' strano, perché ci sono questi ciuffetti sulla fine delle orecchie che gli danno quell'aspetto appuntito, quasi come fossero delle linci. E gli occhi ovali e ben distanziati sono di vario colore, possono essere giallo, rame, verde, oro, insomma tanti colori diversi, un po' in quelle sfumature lì che nulla hanno a che fare col manto, tra l'altro. Il mantello è molto folto e lungo per mantenere caldo il corpo, come abbiamo detto vengono dal freddo, ma la lunghezza è assolutamente irregolare, è corto sulle spalle per poi diventare più lungo sui fianchi e ancora di più sulla pancia. E qui il pelo ha una consistenza morbida ma elanosa, quindi si presta bene ad essere tenuto in casa, perché non si fanno nodi, è sempre molto pulito e non è mai arruffato, ecco. È impermeabile all'acqua e anche chiaramente può camminare tranquillamente anche nella neve, insomma è veramente un gatto nordico. La maggior parte dei Maine Coon sono di colore tigrato, ma è possibile trovare esemplari in circa 75 combinazioni di colori. Mentre parlavi stavo guardando com'è il gatto Maine Coon su internet ed è bellissimo, tra l'altro il nostro tecnico mentre stiamo parlando ha messo le fotografie, quindi il nostro programma per chi lo segue per televisione è ancora più interessante e sembra bellissimo, sembra quasi una lince come dicevi, ma si ammala poco, è robusto. Caterina, diciamo sì che è abbastanza robusto, però come molti gatti ha la possibilità di sviluppare la cardiomiopatia ipertrofica, la displasia all'anca, malattia renale policistica, atrofia muscolare spinale, ma questa è una caratteristica insomma anche di altre razze di gatti. Certo, i gatti vanno tenuti bene, un po' tutti gli animali vanno curati e vanno anche alimentati in modo corretto, perché l'obesità è un fattore di rischio. E soprattutto per la displasia all'anca e comunque tieni presente che la vita media di questa razza è anche abbastanza lunga, dai 14 ai 20 anni, ovviamente se ben curato e alimentato in maniera corretta. Ma parlaci del suo carattere, com'è? È addomesticabile, è buono? Sì, è un gatto però dal miagolio facile, significa che spesso miagola, ma è estremamente gentile, adora la compagnia, si presta bene a stare a trascorrere il tempo giocando con i bambini, anche con gli anziani, si adatta facilmente anche agli altri animali, compresi i cani, tuttavia se è lasciato troppo libero tira fuori tutta la sua energia da esploratore e predatore. E nonostante la sua mole, tra l'altro perché è un gattone, è un gatto agile, si muove con facilità da un angolo all'altro, salta, insomma fa tutto quello che un gatto più magrino potrebbe fare. E di base ha un carattere affettuoso e dolce, non graffia e non è mai aggressivo, quindi è piuttosto calmo e insomma è un gatto che si può tranquillamente tenere in appartamento. E a differenza della maggior parte delle altre razze feline, il Maine Coon è noto per essere amante dell'acqua, che è veramente una stranezza. E che cosa possiamo proporre, Caterina, se non la gatta di Gino Paoli, proprio per attinenza, quindi ascoltiamoci Gino Paoli e non ci lasciate, perché concluderemo l'intervista di Caterina all'assessore Rizzo Nervo del welfare del Comune di Bologna. Era qui in casa mia, oramai non c'è più, è sparito il mio fantasma blu. Era lui che portava allegria, era lui che mi dava poesia. Chi lo incontra gli dica da parte mia che ritorni il mio fantasma blu. A un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato. Ben ritrovati di nuovo a tutti e tutti dopo la pausa musicale. Io sono sempre Caterina, qui con voi, sempre su Liberi Dentro di Radio TV, e proseguiamo già da ieri con l'intervista al nuovo assessore al welfare, nuove cittadinanze e fragilità del Comune di Bologna, Luca Rizzonervo, al quale voglio chiedere, ecco, quando si parla di carcere torna sempre giustamente il tema dei diritti. Penso al tema del lavoro, sappiamo che in carcere sono pochissime le persone che possono permettersi di lavorare, il tema della salute che è strettamente legato anche al tema dell'emergenza del sovraffollamento. Ecco, io le chiedo come si immagina di intervenire su questi ambiti. Allora, io credo che anche qui, a proposito di tavolo sull'esecuzione penale, noi dovremo in quella sede, nella relazione con la direzione del carcere, stringere un patto per affrontare puntualmente questi diversi aspetti. Sono stati anni estremamente complessi. Io ho avuto una comunicazione anche recente, anche del garante per i diritti dei detenuti, che ha segnalato una preoccupazione più che comprensibile sulla situazione, ovviamente, dell'evoluzione della pandemia nella situazione carceraria e nello specifico anche del nostro carcere. Quindi sicuramente sul tema del sovraffollamento, sul tema di come lavorare di più e meglio sul diritto alla salute, rispetto al quale mi permetto di dire però che, a seguito di un accordo che ormai è di diversi anni fa, anzi credo che compia un decennio proprio quest'anno, 2011. Nel 2022, sì. Quindi insomma, credo che quell'accordo ha dato, a proposito di una città che si tiene insieme, un ruolo, un compito e delle risorse importanti messe in campo dalla USL di Bologna, un'attenzione dedicata da parte della USL di Bologna, che sicuramente è da come dire, confermare, che si conferma e che può però necessariamente anche qui, in un lavoro che oggi vede importante attività mediche, infermieristiche e un'attenzione importante da parte dell'azienda sanitaria, appunto leggere anche nuovi bisogni, nuovi diritti di salute e anche una capacità di promuovere la salute all'interno del carcere di Bologna. Quindi sicuramente su questo aspetto c'è necessità di, appunto, nelle sedi opportune, quindi quel tavolo è il luogo che mette insieme e asseduti diversi attori, c'è bisogno di non solo monitorare la situazione, ma capire come possiamo fare di più e meglio per allargare e rendere esigibili dei diritti di salute delle persone all'interno del carcere. È sicuramente uno dei temi che che sta alla mia attenzione, sta all'attenzione del comune, del sindaco, e ripeto, ne faremo oggetto di una relazione forte con la direzione del carcere. Ho una domanda come cittadina. Quali sono le sue tre priorità principali come assessore, ovvero la sua lista delle cose da fare nel 2022? Ma come dicevo prima, ovviamente rispetto alla situazione complessiva generale, sicuramente l'attenzione, lo sviluppo anche di risposte, non necessariamente servizi, ma risposte a questa situazione di infragilimento delle persone e ovviamente alle due dinamiche di emancipazione delle persone che anche nella crisi e nella pandemia sono state fortemente colpite, cioè la casa e il lavoro, che sono due elementi che continuano a essere decisivi nell'emancipazione delle persone, sono ovviamente ambiti di impegno assolutamente prioritario, come è prioritario ovviamente affrontare le nuove povertà e i bisogni che queste nuove povertà esprimono quando li esprimono, perché poi ripeto c'è una a volte anche un grande pudore, una grande prudenza nell'esprimere bisogni nuovi. Per quanto invece, se la domanda è anche specificata sull'impegno all'interno del carcere, secondo me lavoro che ci attende è lavorare ovviamente negli ambiti che dicevamo con gli operatori del carcere, che gli operatori che sono in carcere, per dare loro le condizioni anche strutturali, organizzative di lavoro che li mettano in grado di intervenire in modo tempestivo sulle persone che entrano in carcere per favorire il loro accesso pieno alle opportunità, ai progetti che vi sono all'interno del carcere. Su questo c'è necessariamente un impegno importante. E poi per quanto riguarda il comune, anche questo in termini certo di continuità di impegno, di qualcosa che già oggi si fa, un impegno del comune su tutto quello che è fuori dal carcere, in termini certamente preventivi e protettivi rispetto anche a persone che appunto manifestano elementi di fragilità, di complessità, per quanto più possibile evitare che la strada sia quella della commissione di reati e conseguentemente del carcere, quindi intercettare dei bisogni, offrire aiuto prima che appunto si determinino situazioni che poi portano al carcere. Su questo in particolare noi abbiamo in questo momento una presenza molto forte e molto accresciuta di minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio e l'attenzione, la cura nella relazione con questi ragazzi per evitare che diciamo la strada sia quella della commissione di reati e conseguentemente del carcere è ad esempio un impegno molto forte. E altresì per me l'impegno molto forte sul fuori dal carcere è l'impegno sul dopo carcere, quindi su un impegno di reinserimento meno traumatico possibile delle persone che escono dal carcere nella società, lavorando anche con tutti i nostri partner per sulla formazione professionale dentro e fuori, nella fase successiva fuori dal carcere, sull'inserimento lavorativo, anche con un impegno a sensibilizzare ancora di più e meglio le aziende del nostro territorio perché promuovano, si rendano disponibili a tirocini formativi che sono già un'esperienza in essere ma che possono essere assolutamente potenziati e resi soprattutto veramente propedeutici ad un inserimento lavorativo, quindi rafforzando l'efficacia di questi percorsi perché siano reali percorsi verso il lavoro. E l'altro tema è il tema alloggiativo, abitativo, cioè le persone che escono dal carcere rischiano di non avere situazioni dignitose nell'aspetto dell'abitare, e come dicevo l'abitare e il lavoro sono due elementi decisivi per l'emancipazione, l'affermazione delle persone e la soddisfazione dei propri bisogni, e quindi anche su questo aspetto, in una, diciamo, più complessivo impegno generale su tutto il tema dell'emergenza abitativa che riguarda purtroppo tante, tante famiglie, tante persone nella nostra città, ci sarà un'attenzione particolare insomma su questo. Ecco, Assessore, io la ringrazio nuovamente per la disponibilità per questa intervista su Eduradio. Spero che lei sia un ospite ancora presente sul nostro programma e soprattutto le faccio un augurio per il suo impegno e le chiedo di rivolgere un saluto ai cittadini e alle cittadine che ci stanno ascoltando dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna, in particolare dalla Dozza di Bologna, e magari sarà anche poi l'occasione in seguito per avere una sua visita all'interno del carcere. Ma sicuramente sì, intanto l'impegno che è un piacere a quanto prima essere in carcere, a venire a trovare le persone che sono in carcere, al carcere della Dozza di Bologna. L'ho fatto più volte anche in passato, tornerò quanto prima, quindi questo impegno intanto a esserci. E poi siamo a inizio anno, quindi un augurio a tutte le persone, a tutti i detenuti, alle detenute dei carceri dell'Emilia Romagna e di Bologna per questo 2022 e più in generale, fuori da ogni paternalismo, però a vivere diciamo anche questi periodi complessi, duri di vita come quelli che si vivono in carcere, non come un tempo perso, ma come un tempo invece su cui reinvestire su se stessi, sul proprio futuro. Ovviamente questo dipende dalle persone, e quindi il mio invito è davvero a provare a vivere quel tempo in questa dimensione, ma è un impegno collettivo di tutta la comunità e la società perché questo possa avvenire davvero. E quindi diciamo, mi sento di dirvi, non sentitevi soli, perché davvero deve esserci e ci vuole essere l'impegno di tutta la città di Bologna a essere con voi lungo questi percorsi, a rendere i vostri diritti e le opportunità qualcosa di davvero reale, concreto, possibile nelle nostre carceri. Quindi un saluto e un augurio a tutti. E rieccovi, vi annunciamo le rubriche a seguire nella mezz'ora successiva. Oggi che è venerdì abbiamo Islam, Religione e Civiltà con Andam Al-Zekri e Ignazio De Francesco, e a seguire la rubrica della comunità educante con i carcerati. Domani che è sabato iniziamo subito con la rubrica Le parole della parola a cura del cappellano del carcere Marcello Mattè, poi parliamo di buddismo con la monaca Tashi e a seguire Paola Leotti intervisterà Milvia Spadi con una stralci di intervista a Primo Levi. La domenica partiamo subito con Yoga Ratna a cura di Franco Bonisoli e Laura Russo e poi a seguire FOMAL con Chef al Fornelletto che ci preparerà la ricetta della pasta tricolore con l'orata. Vi salutiamo, vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com e come al sempre un saluto da me che sono Caterina, da Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota, Paola Leotti, ci rivediamo lunedì. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.